Italia in controluce. Italia in controluce, il viaggio di Radio 24 nelle storie di cronaca italiana. Il 9 maggio è il giorno della memoria di tutte le vittime delle stragi e del terrorismo, di destra e di sinistra. È una data importante istituita con decreto dal Presidente della Repubblica Napolitano, dopo una lunga discussione politica tra partiti e associazioni. La memoria delle vittime passa anche attraverso la consegna di un testimone tra generazioni. Questa è la storia di Antonio Iosa, ferito dalle Brigate Rosse, e Giorgio Bezzega, figlio di uno dei due poliziotti uccisi da Walter Alasia negli anni 70. Il racconto di Cristina Carpinelli. All'epoca avevo un bambino di 7 anni e un altro di 10, quindi quando io ho chiesto al terrorista, che poi ho saputo si chiamava Roberto Adamoli, di non spararmi, lui mi ha messo la pistola alla tempia replicando inginocchiati stronzo, voleva che io mi inginocchiasse perché la giustizia proletaria, se come dicevano le Brigate Rosse, non ammette pietà, non ammette sentimenti, per cui per loro l'odio per il nemico politico era tale che uccidere per loro era di normale amministrazione. Questa che avete sentito è la storia di Antonio Iosa, classe 33, nato a Foggia, arrivato a 18 anni a Milano. È un uomo della Democrazia Cristiana, crede in alcuni valori, la famiglia, la libertà di espressione, il dialogo. Nel 1962 fonda il Circolo Culturale Carlo Perini. L'idea è quella di dare vita a un movimento culturale di incontro e dialogo in un quartiere periferico e molto vivace di Milano, Quartogiaro. Al circolo aderiranno negli anni persone di varia esperienza e sensibilità culturale, politica e sociale. Un progetto che non piace agli estremisti di destra e agli estremisti di sinistra, che negli anni 70 daranno vita alle Brigate Rosse. Nella posizione in cui noi vivevamo, essendo l'unico circolo culturale pluralista, non ideologizzato, in un ambiente di periferia, ci siamo trovati nel 1971 a subire un assalto feroce di 80 picchiatori fascisti capitanati da Giancarlo Rognoni, che era il fondatore della Fenice, quindi era legato anche al gruppo della Rosa dei Venti. E nello stesso tempo, il 1 aprile del 1980, un comando di brigatisti imbavagliati e incappucciati fece l'irruzione in una sezione della Democrazia Cristiana e come rappresaglia per l'uccisione di 4 terroristi a Genova, che era avvenuto 3 giorni prima, il 28 marzo, scelsero 4 iscritti alla Democrazia Cristiana, io per primo perché ero conosciuto, e quindi mi gambizzarono perché secondo loro io ingannavo il proletario e sottoproletariato della periferia di Milano facendo cultura per il sistema politico dominante. Nell'oscura ottusità di quegli anni le vittime sono spesso grandi personaggi della società civile. È la storia di Sergio Bazzega, poliziotto che la mattina del 15 dicembre del 76 andò ad arrestare il brigatista Walter Alasia a Sesto San Giovanni e venne ucciso. Sergio Bazzega era allora marito e padre di un bambino di 2 anni e 7 mesi. Assieme a Bazzega fu ucciso anche il questore di Sesto San Giovanni, Vittorio Padovani, anche lui sposato e padre di 2 figli. Beh, 15 dicembre 76 è successo che mio padre è andato a eseguire un mandato d'arresto a Sesto San Giovanni nei confronti di Walter Alasia, che era un giovane sospettato di essere un brigatista. Insieme a lui c'era Vittorio Padovani, c'era anche l'altra squadra. Sono entrati, sono arrivati a bussare alla porta, i genitori hanno detto che non c'era Alasia. Purtroppo invece è saltato fuori dalla camera impugnando la pistola, ha sparato subito al povero Padovani, che non ha avuto il tempo neanche di accorgersene fondamentalmente. Dopodiché mio padre, che era armato, aveva sulla linea di tiro i genitori e il fratello di Alasia, e non ha aperto il fuoco perché aveva un mitragliatore e avrebbe fatto una carneficina. Ha mollato il mitragliatore e ha provato a disarmarlo. Solo che mentre provava a disarmarlo, Alasia ha sparato e l'ha ucciso. Dopodiché Alasia, anche lui, ha provato a scappare dalla finestra, abitava piano terra, ma è stato ucciso anche lui. Questo che vi facciamo sentire è Giorgio Paolo Bazzega, figlio di Sergio e coautore, assieme a Iosa, del libro Milano e gli anni del terrorismo. Per me, a me è cambiato la vita questo evento all'inizio in modo assolutamente negativo, perché mi viveva un senso di ingiustizia feroce dato sia dall'assassinio di mio padre, da una morte assurda, sia dall'abbandono totale da parte di Stato. E se poi ci aggiunge che era il periodo in cui iniziavano a scarcerare tutti i vari brigatisti, come per esempio Curcio, io ho avuto una reazione che ho iniziato a non credere più in quello che erano i valori per cui è morto mio papà. Ho iniziato ad avere problemi di dipendenza, ho iniziato a frequentare compagnie che non andavano bene. Quell'evento però mi ha cambiato anche la vita in modo assolutamente positivo, con l'esempio che mi ha dato mio padre del non aver sparato proprio per il totale rispetto della vita umana che aveva, che era anche il modo in cui interpretava la sua missione di poliziotto. E grazie a questo esempio a un certo punto mi sono ritrovato con l'educazione che comunque avevo ricevuto, questo esempio di mio padre, a guardarmi allo specchio e a pensare cosa stavo facendo, e da lì ho iniziato a cambiare totalmente vita e interessarmi di tutto quello che fino a quel momento avevo rifiutato. Proprio da questo lavoro di conoscenza, anche di incontro con alcuni ex terroristi, diciamo, di quel periodo, ho capito quanto sia proprio importante conoscere, confrontarsi e non lasciare spazio all'odio. L'odio è un vortice, quando si entra nel vortice dell'odio non se ne esce più, si finisce solo a soffrire ulteriormente. Italia in controluce. Prose dai venti di cui ti raccontavo, Borgo Valsugana, provincia di Trento, 21-23 maggio. Buongiorno a Michela Signori. Buongiorno a tutti. Cos'è questo festival che cerca di indagare sul significato della cultura dell'est europea? Allora, è un festival che nasce da un'esigenza, che era quella di cercare di capire, di conoscere un po' di più di culture, di paesi che sono così vicini a noi, di cui sappiamo poco e che stanno influenzando il nostro sviluppo sociale, economico, culturale. Ci siamo chiesti, che cosa potevamo fare per cercare di capire, di sapere e di conoscere un po' di più. Insisto sulla parola conoscere perché Prose dei Venti nasce anche da una dicotomia che è quella tra informazione e conoscenza. Cioè, noi siamo abituati ad essere collegati via internet con tutto il mondo, più o meno H24, abbiamo le informazioni in tempo reale, i media ci passano le informazioni in maniera molto rapida, molto concisa, e però non sappiamo se veramente ci raccontano quello che sta accadendo. Essere informati e conoscere non sono la stessa cosa. Di paesi così vicini, te ne dico uno a caso, la Transnistria. Noi non sapevamo nemmeno che esisteva, o meglio, ne avevamo sentito parlare, ma sapevamo molto poco. Transnistria è uno dei paesi di cui cercheremo di capire un po' di più. È un paese, uno stato indipendentista de facto, però non riconosciuto dalla comunità internazionale, nel territorio moldavo, una strisciolina di terreno lunga e stretta, grande più o meno come la Val d'Aosta, al confine ucraino. Di questo territorio, che è conosciuto per essere, secondo gli osservatori occidentali, il supermercato dello smercio di armi da parte dei terroristi di mezzo mondo, ecco, di questo paese che è così vicino a noi non sapevamo niente. Abbiamo deciso di ospitare una mostra che non era neanche previsto fosse tale. Gugi Fassino, un fotoreporter, era andato qualche anno fa a raccogliere un reportage fotografico in questo territorio. Quando abbiamo visto le foto abbiamo pensato che quelle immagini ci servivano per dare una chiave in più di conoscenza, e ne abbiamo deciso di mettere in piedi una mostra che quindi presentiamo al festival per la prima volta. Ma il festival cercherà anche di sapere qualcosa di più di Romania, qualcosa di più di Russia. Sono tre giornate di studio articolate intorno a un fulcro centrale che sono delle tavole rotonde, accanto alle quali ci sono le presentazioni di autori presenti a queste tavole rotonde. Abbiamo cercato, ci siamo poste l'interrogativo a partire dal senso della traduzione, del tradurre, perché ci siamo chieste quanto pesava nella nostra conoscenza o nella nostra non conoscenza il fatto che le informazioni fossero tradotte in una lingua che non è la nostra. Era la seconda edizione di Italia in controluce. L'archivio delle puntate lo trovate sul nostro sito www.radio24.it. Radio 24 Italia in Controluce su Facebook, la mail controluce@radio24.it. Domani alle 6.30 torniamo su Radio 24.